Microsoft Office 365 è il tuo solito Office. Ora, con molto di più. Continua a utilizzare applicazioni come Excel, Word e PowerPoint come hai sempre fatto. Ma da oggi, portale con te ovunque ti trovi. Su PC o Mac, iPad, tablet e smartphone. Provalo subito. Scarica Microsoft Office 365 gratis per 30 giorni su provaoffice.it. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Uno scontro fra bikers, fra due gruppi antagonisti di carovane motociclistiche, di quelli che vediamo nei film, è successo a Waco in Texas. Qualcuno ha sparato e prima dell'arrivo della polizia sono rimasti sul campo 9 morti. Iraq. ISIS ha conquistato Ramadi, città irachena chiave, brutta storia anche perché gli attacchi aerei americani d'appoggio alle truppe irachene sono serviti a poco. E questi sono fatti di cronaca in evoluzione, dunque oggi vi lascio con una storia di successo italiano in America. Produced by Argotech together with Lavazza, ISS Espresso is the first capsule espresso machine to be installed on the International Space Station, capable of making a perfect espresso in microgravity and extreme conditions. Beh, avete sentito lo speaker, la musichetta di sottofondo che in inglese ci racconta che cosa? Beh, ci racconta del caffè nello spazio, dell'espresso nello spazio. È una storia che sicuramente molti di voi hanno già visto, perché è uscita sui giornali, se ne è parlato, ed è una storia molto italiana perché il caffè nello spazio, l'espresso nello spazio è stato ideato e prodotto e realizzato dalla Lavazza, e gli astronauti che poi si sono bevuti l'espresso e lo hanno fatto col video, ecco, devo dire era molto interessante vedere il video, sono anche loro italiani. Perché vi racconto questa storia? Perché questa notizia che ha fatto un po' il giro del mondo è arrivata a New York l'altra sera, dove c'è stata una delle celebrazioni internazionali di Lavazza che sta celebrando il suo 120° anniversario. Io con me ai microfoni America 24, Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell'omonima grande produttrice di caffè. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Lavazza. Buongiorno. Ci racconti come siete arrivati a costruire questa tecnologia per fare, come dire, la macchinetta che fa l'espresso nello spazio? Perché mi sembra che c'è un'alta componente tecnologica. C'è un'alta componente tecnologica, ma c'è anche, diciamo, una situazione che ha consentito in effetti di arrivare a questo eccezionale risultato dal momento che la messa a punto della macchina è stata fatta grazie alla collaborazione tra Lavazza e un'altra azienda torinese di grandissimo rilievo che si chiama Argotech. È un'azienda forse sconosciuta, ma in realtà questo è dovuto al fatto che si occupa di tematiche molto particolari e specifiche, ma nel suo settore è un'azienda assolutamente leader. È un'azienda che si occupa di formazione degli astronauti in missione e soprattutto si occupa di quello che viene definito lo space food, cioè ciò che gli astronauti mangeranno durante la loro missione. La sfida è nata un po' per caso, perché a seguito del ritorno di uno degli astronauti italiani dalla precedente missione, intervistato dalla stampa, lui raccontò che ovviamente l'esperienza sull'International Space Station era stata straordinaria, era tutto meraviglioso, ad eccezione del fatto che gli mancava tantissimo una cosa, essendo lui italiano, e questa cosa era il caffè. E allora noi che del caffè abbiamo fatto, voglio dire, la nostra ragione di vita, abbiamo colto immediatamente la sfida e mi ha detto: no, ma noi dobbiamo assolutamente trovare la maniera di arrivare sullo spazio con una macchina che ci permette di preparare un ottimo caffè. La storia della Lavazza, beh, devo dire, è particolare, perché io mi ricordo che voi avete investito a un certo punto 250 milioni di dollari in un'azienda americana che si chiama Green Mountain, che fa caffè, doveva essere un investimento strategico, e nel giro di 4 anni questo investimento si è trasformato in un plus valore di un miliardo di dollari, e poi avete venduto, avete riportato i soldi a casa. Ecco, parliamo di questo, cioè voi avete sempre avuto la molla internazionale, e cosa dice a chi in Italia resiste l'idea di guardare all'estero, di investire all'estero. Ma io direi che la storia della macchinetta spaziale, secondo me, può essere un po' interpretata come un apologo per rispondere a questa domanda, perché da una parte è fondamentale continuare a coltivare il gusto per l'innovazione e la voglia soprattutto di andare sempre al di là dei propri confini, e qualunque cosa può essere estremamente utile per riuscire a fare questo, motivare ed andare avanti. Detto questo, chiaramente anche i confini nazionali a volte rappresentano un limite da superare, perché poi il vero sviluppo ormai diventa internazionale, diventa globale, quindi è decisivo riuscirsi a inserire all'interno di questo enorme flusso che è la globalizzazione, per cercare di coglierne tutti i vantaggi e riportarli poi all'interno del nostro paese per continuare a creare ovviamente sviluppo, investimento e nuova innovazione. Le aziende credo che non possono che non accettare di misurarsi con una situazione di questo genere. La cosa fondamentale è riuscire a crescere rapidamente attraverso diverse formule e diverse opzioni. Chiaramente una è la crescita organica, che noi abbiamo sempre portato avanti in tanti anni, e altre sono le acquisizioni. Questo è possibile farlo sostanzialmente fondandosi su due principi molto importanti. Innanzitutto la tua azienda deve essere ben gestita, deve essere efficientissima, deve essere in grado, voglio dire, di tenere il mare, di navigare sicura e soprattutto di produrre cassa. La seconda cosa fondamentale è la propensione al rischio, che secondo me in Italia è sempre molto bassa, mentre invece è decisivo poterla aumentare. La propensione al rischio è quello che a un certo punto ti porta a crescere per quanto riguarda il livello delle tue ambizioni, e noi sappiamo benissimo che per la nostra realtà, se vogliamo continuare ad essere rilevanti a livello internazionale, dobbiamo sicuramente superare delle soglie critiche, che sono delle soglie di fatturato. Oggi noi facciamo 1.3 billion, sappiamo che dobbiamo assolutamente arrivare a pesare almeno 3 billion, quindi questo deve essere realizzato rapidamente, però senza disassare quelli che oggi sono i punti forti dell'azienda. Che tipo di rapporto avete con il dettaglio? Noi abbiamo in giro per il mondo più di 100.000 clienti. Il nostro modello è quindi un modello diverso, non è il modello di Starbucks, è un modello che ci porta vicino ai nostri clienti e ci permette comunque di fare il nostro percorso, di avere oggi un'azienda di grande successo e di celebrare, direi con grande ottimismo, 120 anni, nella speranza ovviamente di farne altri 120 così, se non meglio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho sempre con me Lavazza. Io in genere quando un ospite chiedo all'ospite di darci una canzone, cosa le viene in mente? Cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Direi che vista la particolare occasione c'è una bella canzone di Frank Sinatra che si chiama The Coffee Song, mi sembra estremamente adatta per il tema che stiamo trattando. Direi, avendo parlato di caffè e di 120esimo anniversario, in effetti è la migliore. Frank Sinatra, The Coffee Song. That was fine, the great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24. Microsoft Office 365 è il tuo solito office, ora con molto di più. Continua a utilizzare applicazioni come Excel, Word e PowerPoint come hai sempre fatto, ma da oggi portale con te ovunque ti trovi, su PC o Mac, iPad, tablet e smartphone. Provalo subito. Scarica Microsoft Office 365 gratis per 30 giorni su provaoffice.it.